far teologia era per lui essenzialmente spiegare, comprendere la scrittura, o potremmo anche dire la sua teologia è la perfetta simbiosi tra teologia ed esegesi. In verità, la sigla propria della dottrina origeniana sembra risiedere appunto nel incessante invito a passare dalla lettera allo spirito delle scritture per progredire nella conoscenza di Dio. E questo cosiddetto allegorismo, così ha scritto von Balthasar, coincide precisamente con lo sviluppo del dogma cristiano operato dall'insegnamento dei dottori della Chiesa, i quali hanno accolto in un modo o l'altro la lezione di origine. Così la tradizione e il magistero, fondamento e garanzia della ricerca teologica, giungono a configurarsi come scrittura in atto. Possiamo affermare perciò che il nucleo centrale dell'immensa opera letteraria di origine consiste nella triplice lettura della Bibbia. Ma prima di illustrare questa triplice lettura, conviene dare uno sguardo complessivo alla produzione letteraria dell'Alessandrino. San Girolamo, nella sua Epistola 33, elenca i titoli di 320 libri e di 310 omelie di origine. Purtroppo la maggior parte di quest'opera è andata perduta, ma anche il poco che ne rimane fa di lui l'autore più prolifico dei primi tre secoli cristiani. Il suo raggio di interesse si estende dall'esegesi al dogma, alla filosofia, all'apologetica, all'ascetica e alla mistica, una versione fondamentale e globale della vita cristiana. Il nucleo ispiratore di quest'opera è, come ho accennato, la triplice lettura della Sacra Scrittura. Con questa espressione intendiamo alludere alle tre modalità più importanti, tra loro non successive, anzi più spesso sovrapposte, con le quali Origene si è dedicato allo studio delle scritture. Anzitutto egli lesse la Bibbia con l'intento di accertarne al meglio il testo e di offrirne l'edizione più affidabile. Questo è sempre il primo passo, conoscere realmente che cosa sta scritto e questa scrittura storica che cosa voleva intenzionalmente inizialmente dire. Ha fatto grandi studi a questo scopo, ha avuto una edizione della Bibbia con 6 colonne parallele da sinistra a destra, il testo ebraico in caratteri ebraici, ha avuto anche contatto con i rabbini per capire bene il testo originale ebraico della Bibbia, poi il testo ebraico traslittero in caratteri greci e poi 4 traduzioni diverse in lingua greca che gli permettevano di comparare le diverse possibilità di traduzione. Di qui il titolo di Esapla, 6 colonne, attribuito a questa immane sinossi. Questo è il primo punto, conoscere esattamente che cosa sta scritto, il testo come tale. In secondo luogo, Origene lesse sistematicamente la Bibbia con i suoi celebri commentari. Essi riproducono fedelmente le spiegazioni che il maestro offriva durante la scuola. Origene procede versetto per versetto in forma minuziosa, ampia, approfondita, con note di carattere filologico e dottrinale, lavora con grande esattezza per conoscere bene che cosa volevano dire i sacri autori. Infine, anche prima della sua ordinazione presbiterale, Origene si dedicò moltissimo alla predicazione della Bibbia, adattandosi a un pubblico variamente composito. In ogni caso, si avverte anche nelle sue omelie il maestro tutto dedito alla interpretazione sistematica della pericope in esame, via via frazionata nei successivi versetti. Anche nelle omelie Origene coglie tutte le occasioni per richiamare le diverse dimensioni del senso della Sacra Scrittura che aiutano o esprimono un cammino nella crescita della fede. C'è il senso letterale, ma il senso letterale nasconde profondità che non appaiono in primo momento. Seconda dimensione è il senso morale, cosa dobbiamo fare vivendo la parola. E finalmente il senso spirituale, cioè l'unità della scrittura che in tutta la sua unità parla di Cristo, è lo Spirito Santo che ci fa capire il contenuto cristologico e così l'unità della scrittura nella sua diversità. Sarebbe interessante mostrare questo un po', ho tentato nel mio libro su Gesù di mostrare nella situazione di oggi queste multidimensionalità della parola della Sacra Scrittura che prima deve essere rispettata proprio nel senso storico, ma questo senso si trascende verso Cristo nella luce dello Spirito Santo e ci mostra la via come vivere. Se ne trova, cenno un esempio, dove nella una delle omelie sui numeri, Origene paragona la scrittura alle noci e dice: così è la dottrina della legge dei profeti alla scuola di Cristo. Amara è la lettera che è come la scorza. In secondo luogo perverrai al guscio, che è la dottrina morale. In terzo luogo troverai il senso dei misteri del quale si nutrono le anime dei santi nella vita presente e nella vita futura. Soprattutto per questa via Origene giunge a promuovere efficacemente la lettura cristiana dell'Antico Testamento, rintuzzando in maniera brillante la sfida di quegli eretici, soprattutto gnostici marcioniti, che opponevano tra loro i due testamenti, fino a ricettare l'Antico. A questo proposito, nella medesima omelia sui numeri dice: io non chiamo la legge un Antico Testamento, se la comprendo nello spirito. La legge diventa Antico Testamento solo per quelli che vogliono comprenderla carnalmente, cioè fermandosi alla lettera, ma per noi che la comprendiamo e la applichiamo nello spirito e nel senso del Vangelo, la legge è sempre nuova e i due testamenti sono per noi un nuovo testamento, non a causa della data temporale, ma della novità permanente del senso. Invece per i peccatori, per quelli che non rispettano il patto della carità, senso ultimo spirituale, anche i Vangeli invecchiano. Vi invito, e così concludo, ad accogliere nel vostro cuore l'insegnamento di questo grande maestro nella fede. Egli ci ricorda con intimo trasporto che nella lettera orante della scrittura e nel coerente impegno della vita la Chiesa sempre si nuova e ringiovanisce. La parola di Dio, che non invecchia mai, né mai si esaurisce, è mezzo privilegiato a tale scopo. È infatti la parola di Dio che per opera dello Spirito Santo ci guida sempre di nuovo alla verità tutta intera, e preghiamo il Signore che ci dia oggi pensatori, teologi, esegeti che trovano questa multidimensionalità, questa attualità permanente della Sacra Scrittura, la sua novità per oggi, e preghiamo che il Signore ci aiuti di leggere in modo orante la Sacra Scrittura e di nutrirci sì realmente del vero pane della vita, della sua parola.